detto che dobbiamo essere i primi che portano rispetto a queste persone, perché comunque se ci dedicano quel minuto, quei secondi nel quale parlano, cioè, non dobbiamo essere sfacciati o maleducati.